Nucleare, centrali tutte ferme entro il 2022, la decisione dopo l'incidente di Fukushima. Aperte ancora 2 ore, poi comincia lo spoglio del ballottaggio per le amministrative. Travolto e ucciso un ragazzino a Nettuno, al volante un rumeno ubriaco che è fuggito, poi dopo qualche ora si è costituito. Giorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In apertura l'attentato, anzi gli attentati in Afghanistan, nella città di Herat, nell'ovest del paese. Fra gli edifici colpiti il PRT, il gruppo di ricostruzione provinciale gestito proprio dal contingente italiano. La polizia afghana riferisce di un'azione kamikaze contro il PRT, altri 2 obiettivi, ma nulla si sa ancora in via ufficiale. Il ministro della difesa La Russa ha detto che nessun soldato italiano ha perso la vita. Da fonti del Ministero della Difesa si apprende però che dei 15 feriti italiani almeno uno è in gravissime condizioni, gli altri invece non sarebbero in pericolo di vita. Ci sono anche vittime fra la popolazione afghana, almeno 4 morti e una decina di feriti. L'operazione è stata rivendicata da un portavoce dei talebani. E noi ci colleghiamo in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, possiamo parlare di una recrudescenza negli attacchi, peraltro in un'area che sembrava pacificata, per quanto possa dirsi di una zona dell'Afghanistan? Ma per la verità pacificato in Afghanistan non c'è nulla, tantomeno con la zona di Herat dove stanno gli italiani, perché proprio pochi giorni fa era stata avviata un'operazione su larga scala nella zona di Bala Murghab, sia dai soldati italiani che da quelli afghani che da quelli americani. Insomma, non mi pare che si possa parlare di un'area pacificata. Diciamo soltanto che questa è parte di questa offensiva di primavera che era stata promessa un mese fa dai talebani e puntualmente è stata purtroppo mantenuta in un'area, tra l'altro nel cuore della città di Herat, che sì, lì sembrava che fosse più o meno sicura, anche se proprio di Afghanistan di sicuro non c'è nulla. E tra l'altro gli attentati sono stati plurimi, perché da quanto pare, dalle prime confuse ricostruzioni che è stata fatta, ci sono stati perlomeno 2 attentati kamikaze. Uno dove c'è il PRT di Herat, che è una specie di residenza, un'antica residenza di un notabile locale che è stata riadattata alcuni anni fa come sede del comando provinciale, l'altra intorno al palazzo del governatore, e qui sarebbero morti alcuni afghani. Alberto, c'è una strategia in particolare contro gli italiani? Ma non direi che c'è una strategia in particolare contro gli italiani, è che nella provincia di Herat gli italiani hanno il contingente più numeroso, sono 4.000 e oltre i soldati italiani in Afghanistan, e tra l'altro la provincia di Herat dovrebbe essere una delle prime destinata alla famosa transizione alle forze afghane, cioè al trasferimento dei poteri di sicurezza alle forze afghane entro la fine dell'anno. È un traguardo, come si vede, ancora abbastanza difficile da realizzare. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Gli equilibri strategici e militari sono stati al centro del recente viaggio di Barack Obama in Europa. Il presidente russo non è affatto soddisfatto dei passi compiuti appunto dal presidente americano sul fronte del disarmo e teme anche che dopo il 2020 possa ripartire una vera e propria corsa agli armamenti. Medvedev teme un peggioramento delle condizioni lungo il fronte orientale dell'Europa. Qui accanto a me Gigi Donelli. Sì, buongiorno Piero. Effettivamente sembra strano oggi parlare di addirittura fronte orientale, ma il riferimento è proprio a quel confine che riguarda la Polonia, che si apre naturalmente sulla Bielorussia da una parte, a nord però c'è la Russia, c'è Kaliningrad. Che cosa accade? Bene, durante questo viaggio il presidente degli Stati Uniti è tornato su una questione su cui sta lavorando con attenzione ormai dall'inizio del suo mandato, e riguarda il trasferimento di F-16, quindi cacciabombardieri americani, in permanenza nelle basi polacche. Lo fa perché la Polonia, che è un vero e proprio caposaldo della nuova politica internazionale di Washington, ha acquistato negli anni gli F-16 in questione, oltre degli aerei da trasporto, perché la Polonia rappresenta un importante punto di riferimento appunto per la politica nazionale. E non solo, ricordiamo anche che la Polonia polacca è la principale comunità di riferimento su subito dopo quella irlandese di Chicago, la città di Obama. Insomma, ci sono delle forti tensioni. Medvedev si preoccupa a sua volta di fronte a un mandato elettorale, 2012 sarà elezione anche in Russia, perché la posizione americana e della NATO, dunque, nell'Europa orientale mette in difficoltà la sua politica interna. È chiaro che Obama non vuole scontentare Medvedev, che di fatto è il suo maggiore alleato al Cremlino, si dice molto più vicino rispetto a Putin, ma certo c'è un gioco di equilibri che da qui al prossimo anno dovrà comunque imporre delle mosse a questi protagonisti e non sarà facile. Grazie, grazie a Gigi Donelli. E 20 persone sono rimaste uccise a Taiz, nel sud dello Yemen, dove la polizia è intervenuta con la forza per disperdere un sit-in di protesta. Le forze del presidente Saleh hanno attaccato nella notte con carri armati e blindati manifestanti accampati in Piazza della Libertà e hanno dato fuoco alle tende. La Germania rinuncia al nucleare, l'annuncio nella notte dal Ministero dell'Ambiente. La Germania punta ad abbandonare il nucleare entro il 2022. La scelta, voluta dalla coalizione democristiana liberale dopo l'incidente di Fukushima, è giunta dopo lunghe discussioni. Non tutti in questo paese sono d'accordo. Le imprese del settore protestano per una scelta d'autorità, ma anche molte aziende industriali temono un aumento dei costi e affermano che la decisione, in fin dei conti, non è compatibile con le necessità di un grande paese manifatturiero. Il governo Merkel vuole controbilanciare l'uscita dal nucleare, che oggi garantisce il 23% dell'elettricità nazionale, con un aumento dell'uso delle energie rinnovabili e del gas. La sfida è tanto ambientale quanto politica ed economica. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E della decisione tedesca ha parlato questa mattina anche Umberto Veronesi, presidente dell'Agenzia per la Sicurezza sul Nucleare. L'influenza e l'ondata di panico per Fukushima ha creato un'emozione che si è riflessa anche al mondo politico, ha detto Veronesi. Il terrore di perdere voti ha fatto prendere decisioni in quella direzione. In Italia non ci sono ancora stati casi di infezione da Escherichia coli, l'epidemia causata dal consumo di cetrioli contaminati che ha già portato alla morte 11 persone in Germania. Nessun allarme dunque nel nostro paese, anche se il sistema sanitario è allertato. L'invito è solo quello di seguire le abituali norme igieniche. C'è però forte preoccupazione per i pesanti effetti economici dell'epidemia sulle esportazioni italiane di frutta e verdura. Stefano Masini, responsabile ambiente e consumi di Coldiretti, al microfono di Adriana Fracchia. Non si tratta di un inquinamento per così dire chimico, ma batteriologico, probabilmente sono le pessime condizioni di trasporto di ortofrutta, di una partita di ortofrutta, quindi circoscritta ad un lotto individuato, che ha creato questo, diciamo, allarme grave in relazione appunto ai decessi che ne sono seguiti a causa di un batterio che deriva da pessime condizioni igienico-sanitarie nelle fasi che hanno accompagnato dal campo appunto alla tavola del consumatore i cetrioli. Anche l'Italia tra l'altro importa ortofrutta dall'Europa. In questo periodo in cui il sole ci consentirebbe di avere produzioni rigogliose e importanti di frutta e verdura, sono le distorsioni della logistica, dobbiamo pensare, questi casi ci portano a pensare al fatto come sia opportuno rilocalizzare i consumi, accorciare le filiere e dar più spazio ai mercati di vendita diretta degli agricoltori. Sul tema immigrazione, la Commissione europea invita Italia e Malta a cooperare nelle operazioni di salvataggio in linea con quanto prevede il diritto del mare. La stessa Commissione è pronta, se necessario, a mediare fra i due. Questa è la posizione espressa dalla portavoce della commissaria agli affari interni Cecilia Malmström dopo le critiche lanciate ieri dal ministro dell'interno Roberto Maroni nei confronti di Malta per il mancato intervento delle autorità di La Valletta davanti al rischio di una nuova tragedia del mare. La Commissione, ha detto ancora il portavoce, esprime gratitudine alle autorità italiane per l'operazione di salvataggio dei 209 migranti che si trovavano su un barcone alla deriva. Ed ora a Palermo per un'importante operazione antimafia. Durante i colloqui in carcere a Lucciardone, l'imprenditore Andrea Impastato, arrestato stamani da uomini della DIA di Palermo, veniva costantemente informato sull'andamento dei lavori per la realizzazione del passante ferroviario di Palermo. Formalmente escluso dall'appalto perché condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, L'imprenditore sarebbe comunque riuscito a infiltrarsi grazie alla raccomandazione di Bernardo Provenzano in persona. Al momento dell'arresto del boss, nel 96, è stato infatti trovato un pizzino in cui Salvatore Lopiccolo chiede al padrino di indicargli qualcuno da favorire in vista dell'inizio dei lavori per la metropolitana. Secondo gli investigatori, Provenzano avrebbe indicato Andrea Impastato, che ha agito tramite prestanome. L'arresto dell'imprenditore si inserisce nell'inchiesta riguardo al lievitamento dei costi per la realizzazione del passante ferroviario saliti da 76 a oltre 170 milioni di euro. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di evasione fiscale adesso e della classifica che potete leggere oggi su Sole 24 Ore. Rischio evasione fiscale in aumento al sud. L'incrocio fra redditi e consumi nei territori italiani mostra un allargamento del divario tra regioni settentrionali e meridionali nella geografia del rischio evasione, come riporta Il Sole 24 Ore oggi in edicola. L'indice elaborato dal Centro Studi Sintesi Unioncamere Veneto evidenzia come la maggiore propensione a spendere rispetto alla ricchezza effettiva si manifesti in Campania. Subito dietro ci sono Sicilia, Sardegna e Calabria. Molto dovuto alle attività criminali e al lavoro sommerso, che oltre alle imposte sottrae anche i contributi. Le regioni del nord si mostrano più fedeli al fisco, anche se questo non esclude la presenza di fenomeni di evasione. Le più virtuose in assoluto sono Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Piemonte. A livello provinciale, Trieste, Bologna e Bolzano mostrano gli indici migliori, mentre Ragusa, Catania e Crotone chiudono la graduatoria. Giovanni Parente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È morto nella notte a Roma l'ex direttore generale della RAI, Biagio Agnes, aveva 82 anni. Domani sarà allestita la camera ardente nella sede RAI, mercoledì i funerali. La politica che non fa che tentare di piazzare qua e là i giornalisti. Qui è un circolo che non finisce più, Presidente. Io penso che la prima regola dovrebbe il giornalista trovarla nella propria responsabilità, nella propria moralità, nel proprio impegno. Così parlava in un duetto con Milly Carlucci, Biagio Agnes, lui che di TV e rapporti con la politica ne sapeva certo più di tanti altri. Dal 1982 al 1990 è stato storico direttore generale della RAI, tra i più longevi della TV pubblica. A 82 anni il suo impegno era ancora nel giornalismo, direttore della scuola dell'Università di Salerno. Di origini avellinesi, classe 1928, Biagio Agnes cominciò ventenne l'attività giornalistica. Nel 1958 l'ingresso in RAI, dove ha percorso tutta la carriera. Redattore alla sede di Cagliari, capo servizio al giornale radio, condirettore del telegiornale, fondatore e direttore del TG3, vice direttore generale per la radiofonia, trampolino alla direzione generale. Sotto la sua guida, la RAI ha affrontato l'avvento della TV commerciale, suo anche l'avvio di Televideo, un sistema che allora apparve come rivoluzionario per l'informazione minuto per minuto. Poi l'avvio della sperimentazione della TV via satellite e l'alta definizione, quella che è la televisione di oggi, cresciuta nel solco di Biagio Agnes. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Serie di attentati suicidi ad Herat in Afghanistan, feriti alcuni soldati italiani, uno è gravissimo. La Germania dice addio al nucleare, centrali tutte ferme entro il 2022, la decisione dopo l'incidente di Fukushima. E ripartiamo dalla politica e dal ballottaggio per le amministrative. Siamo ormai a fine corsa, alle 15 chiudono infatti le urne. In diretta da Roma, Alessandra Schepisi. Sì, e così c'è tempo ancora fino alle 15, ma sarà difficile che questa seconda giornata possa cambiare di segno. Il dato sulla partecipazione che resta negativo, dato relativo alle 22 di ieri sera, che indica un'affluenza in calo in tutta Italia, meno 6% per le comunali, meno 12% per le provinciali, con differenze che però variano da città a città. Se infatti a Milano la flessione rispetto al primo turno è stata davvero minima, 53,2 rispetto a 53,5, a Napoli invece si è registrato un meno 7% rispetto al primo turno e quindi ha votato il 34% contro il 41% di due settimane fa. In quasi tutti gli altri grandi centri l'affluenza è stata bassa, unica eccezione Trieste, dove la percentuale di affluenza è aumentata di quasi 3 punti percentuali. Il prossimo dato sull'affluenza arriverà poco dopo le 15, sarà quello definitivo, e poco dopo le 15 anche i primi exit poll. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. E subito dopo le 15 comincerà anche la programmazione speciale di Radio 24, a partire da un'edizione speciale di GR 24 proprio alle 15, poi due speciali elezioni dalle 16 alle 17 e dalle 21 alle 22, i consueti commenti anche alla Zanzara con Giuseppe Crociani, poi domani mattina uno speciale dalle 8:20 alle 10 con Alessandro Milan e Giannino, Oscar Giannino. La cronaca: era ubriaco l'uomo che ieri sera travolto e ucciso un ragazzino di 16 anni a Nettuno, vicino Roma, per poi fuggire senza neanche prestare soccorso. L'uomo, un romeno di 35 anni, si è poi costituito qualche ora dopo ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Domani è la data ultima per far iniziare i lavori dell'alta velocità al tunnel della Maddalena e non perdere così i finanziamenti europei. Non arretreremo di un centimetro dalle nostre posizioni, dicono i Notav, mentre politici ed industriali chiedono di avviare i cantieri della Torino-Lione anche con la forza se necessario. Cristina Carpinelli ha intervistato Mariella Enoch, presidente di Confindustria Piemonte. Presidente Mariella Enoch, lei a capo di Confindustria Piemonte si è spesa per un impegno diretto della società civile nella questione dell'alta velocità. Domani è la data ultima per far iniziare i lavori al tunnel della Maddalena e ottenere finanziamenti europei. Allora, la prima domanda è: la società civile ha risposto a questo appello? Ma noi la stiamo stimolando e direi che una risposta comincia certamente ad esserci. Abbiamo avuto l'impressione che in Val di Susa proprio la società civile fosse stata impaurita. Quando si dice che si rischia di far saltare finanziamenti, che cosa si intende? Si intende che l'Unione Europea, che ha messo dei finanziamenti per fare quest'opera, li toglie e li dà a un altro paese, probabilmente a un paese dell'ESMA. Questi finanziamenti non saranno più dati all'Italia, quindi non si tratta che non vengano dati al Piemonte, al Corridoio 5, non vengono più dati all'Italia per delle grandi opere. Questo è il tema. All'interno del mondo dell'imprenditoria e anche della politica, il fronte è compatto o ci sono delle spaccature? No. E devo dire che il fronte è compatto ed è compatto bipartisan, è stata firmata in Parlamento una mozione bipartisan da tutti i senatori, dall'IDV a Forza Italia, a Futuro Libertà, a tutti insomma quelli che rappresentano le forze parlamentari. Se non vogliamo isolare non solo la Valle di Susa ma il Piemonte e grande parte dell'Italia, ecco, quest'opera va fatta, non è un pallino di qualcuno, questa è un'opera che in Italia va fatta. Qui stiamo parlando di collegare l'Italia al mondo. Si ipotizza anche tra le varie cose l'utilizzo di strumenti come rendere l'area militare, questa è una, insomma, una questo decisione certamente estrema. È una decisione della forza pubblica. Certamente noi abbiamo anche scritto una lettera al ministro Maroni in questo senso, proprio perché quando è necessario e questo venga usato. D'altra parte, sa, questa è una pura difesa della democrazia. E oggi giornata di caos a Roma per lo sciopero dei mezzi pubblici. In diretta da Roma, Jacopo Matano. Sì, la protesta dei sindacati USB, comparto trasporti e Faisa Cisal, che coinvolge i lavoratori dell'ATAC di Roma Trasporto Pubblico Locale, è iniziata questa mattina alle 8:30 e proseguirà fino alle 17 per riprendere dalle 20 fino alla fine del servizio. Cancelli aperti regolarmente nelle due linee di metropolitana, mentre riduzioni delle corse di bus e tram si sono verificate fin dalla mattinata, con ripercussioni sul traffico e sull'attesa da parte di passeggeri. Ne abbiamo sentiti alcuni. Molto che aspetti l'autobus? Sì, un'ora. Un'ora addirittura? Cosa fai se non passa? Provo a prendere un taxi. Quanto tempo aspetta? 45. È venuto uno e è andato via subito perché dice che ha smontato. Ci vorrebbe un po' più di informazione per un altro. Ci sciopero fino al problema per loro. Il problema è nostro. Per le ferrovie urbane sono fermi i treni della Termini Giardinetti e la ferrovia metropolitana per Viterbo, mentre sono regolari le corse della Roma Lido. Per agevolare gli utenti, il Campidoglio ha disposto il libero accesso nelle zone a traffico limitato del centro storico e di Trastevere. È tutto. L'avvocato di Michele Misseri ha presentato questa mattina richiesta di scarcerazione al GIP del Tribunale di Taranto. Misseri è in carcere dal 6 ottobre scorso, quando confessò il delitto e fece ritrovare il corpo della nipote Sara Scazzi sepolto in una cisterna. Il contadino di Avetrana è ora accusato solo della soppressione del cadavere della quindicenne. Questa mattina intanto la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri, raggiunte giovedì scorso da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono comparse davanti al GIP Rosati per l'interrogatorio di garanzia. Entrambe le indagate hanno scelto però la facoltà di non rispondere. Sette persone sono annegate nel fine settimana, fra cui un bambino di 6 anni. Un problema, quello degli annegamenti nella stagione estiva, che colpisce spesso i più piccoli e che è non solo italiano. In Svizzera sono corsi ai ripari con una massiccia campagna di sensibilizzazione. Romolo Napolitano ha sentito Paola Lurati dell'Ufficio Prevenzione Infortuni Elvetico. Noi vogliamo sensibilizzare i genitori o le persone che accudiscono i bambini sul fatto che un bambino può annegare in meno di 20 secondi e quasi sempre in silenzio, ed è per questo che i bambini vanno sempre sempre tenuti sott'occhio, specialmente tra i 0 e i 9 anni. Per quanto concerne i più piccoli, fino ai 5 anni, bisogna poterli raggiungere il più rapidamente possibile, quindi trovarsi a 1 o 3 passi al massimo, altrimenti non abbiamo più niente da fare. Da quale esigenza nasce questa campagna? Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo notato che con una semplice regola comportamentale da parte delle persone che accudiscono i bambini si potrebbero evitare tutte queste tragedie. Noi vogliamo in Svizzera non più avere annegamenti di bambini fino ai 9 anni. Insegnerete ai bambini anche a portarsi in salvo da soli, è così? Esattamente, ci sono i bambini che sono già in grado di nuotare e che comunque hanno bisogno anche di altre competenze, e noi consigliamo il controllo sicurezza in acqua, che è un corso supplementare che fa in modo che il bambino riesca, in caso di caduta accidentale in acqua, a tornare al bordo, a trarsi in salvo da solo. Cambiamo argomento, una classifica anche per le pensioni, a stilarla l'INPS. I più ricchi sono gli ex dirigenti con una pensione media di quasi 3.800 euro al mese, seguiti da ex piloti e assistenti di volo circa 3.500 euro al mese. I più poveri sono invece i collaboratori iscritti alla gestione separata, a partire dai Co.co.co, poco più di 100 euro al mese. Le cifre emergono dal rapporto annuale dell'INPS, che rivela un paese di pensionati a velocità variabile. Il fondo pensioni lavoratori dipendenti, il più numeroso con 9,4 milioni di assegni corrisposti, assicura trattamenti medi di 11.192 euro l'anno, che divisi per 13 mensilità equivalgono a poco più di 860 euro al mese. I pensionati del fondo trasporti e del fondo ferrovie prendono in media quasi il doppio, più del doppio i pensionati del fondo elettrici e del fondo telefonici. Più misera le pensioni medie di coltivatori diretti e artigiani, meno di 8.000 euro l'anno, e commercianti, quasi 9.200 euro l'anno. Disparità dunque, come quelle già emerse dai dati Istat sugli stipendi. Dietro ai 1.286 euro al mese di retribuzione media nazionale si nasconde il peggior trattamento riservato alle donne, 1.130 euro contro 1.400 dei maschi, mentre i giovani per i primi 2 anni non vanno oltre i 900 euro. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi 31 maggio si celebra in tutto il mondo la giornata senza tabacco, domani 31 maggio, indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prima di tante argomentazioni, un dato. Anche quest'anno, tanto per non perdere l'abitudine, in tutti i sensi, oltre 5 milioni di persone nel mondo perderanno la vita per malattie, dall'infarto al cancro ai polmoni, causate dal tabacco. Una stima che non include, tra l'altro, le oltre 600.000 persone, in più di un quarto dei casi bambini, che moriranno per l'esposizione al fumo passivo. Parole al vento, parrebbe, se si calcola che, per stare solo alle cifre italiane, sono ancora tantissimi fumatori, oltre 11 milioni, e sono in aumento specie tra le donne e i giovani. Ma gli esperti ripetono senza sosta: non è mai tardi per smettere di fumare e i benefici per la salute sono presenti a ogni età. Certo, meglio prima che poi. Possibilmente, se la volontà non ci arriva, rivolgendosi ai tanti centri antifumo sparsi sul territorio nazionale. Il messaggio chiave di quest'anno dell'OMS è diretto ai governi di tutti i paesi, esortandoli a sottoscrivere e a dare piena attuazione all'accordo per proteggere le generazioni presenti e future dall'epidemia globale dell'uso del tabacco. In Italia, per esempio, su iniziativa dell'Allen Cars Easy Way Italia, in collaborazione con Mail Bookstore e Libraccio, sarà distribuito gratuitamente ai primi 100 giovani che si presenteranno nei negozi delle due celebri catene il piccolo libro illustrato per smettere di fumare, di Allen Carr, tratto dal bestseller dell'autore. Una buona occasione per smettere, insomma, questa volta però seriamente. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport. Tennis, è stata una decisione difficile da prendere, era quella giusta. Fabio Fognini non nasconde l'amarezza annunciando il proprio ritiro dal Roland Garros a causa dell'infortunio alla coscia rimediata nel lungo match contro lo spagnolo Montanès. Il calcio, con la Coppa Italia, l'Inter, applausi e rimpianti per il Palermo. Questo è il verdetto della finale di Roma, nerazzurri che si impongono per 3-1. Primo titolo, due sortite di Samuel Eto'o dal Fortino Nerazzurro e l'Inter porta a casa una Coppa Italia, che è anche il primo trofeo dell'era Leonardo. Altro che però il calcio bailado, che è la cifra stilistica di Leo. All'Olimpico si vede soprattutto il Palermo, che prima e dopo le stoccate di Eto'o va vicino a gol e Coppa e fa di Julio Cesar il vero eroe nerazzurro della serata. Poi al 26esimo il primo affondo del camerunense, bissato alla mezz'ora della ripresa. A quel punto il Palermo va all'arrembaggio, a 2 minuti dalla fine trova il gol della speranza di testa con Muñoz, su angolo che non c'è, ma Delio Rossi si fa espellere e poi Morganti caccia via, con un rosso più che dubbio, lo stesso Muñoz per fallo su Mariga. Sulla punizione Eto'o colpisce la traversa, passa un minuto e in contropiede Milito fa il 3-1. È il sigillo, la Coppa va all'Inter, al Palermo, al terzo KO in finale, restano rimpianti e applausi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci. Prossima edizione alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.